Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, l'appuntamento con i periodici italiani e stranieri da cui traiamo le notizie più interessanti, le notizie che più si prestano magari anche a qualche commento, a qualche momento di riflessione. Quindi diciamo tra la cronaca, ma non solo cronaca, anche spunti che possono essere utili per discutere o argomenti da approfondire. Ad esempio capita spesso, leggendo appunto i settimanali sia italiani che stranieri, di veder tornare delle notizie che magari si sono intercettate sui giornali, sui siti, alla radio, di cui si è sentito parlare in qualche modo magari frettolosamente e che però vengono recuperate appunto dai periodici per farne argomento di riflessione. Questo succede ad esempio con Vanity Fair questa settimana. Nella sua rubrica Fuoco e Fiamma, Fiamma Satta recupera una notizia che forse avete visto: chi tradisce il partner è stupido. Questo non è naturalmente un giudizio di valore, nel senso non sta a significare un disprezzo per colui che mette o colei che mette in atto un tradimento, ma si basa invece su proprio un ricercatore universitario di un'università inglese, il quale avrebbe dimostrato che se una persona ha un quoziente di intelligenza inferiore è più portato al tradimento, ma si può dire anche al contrario, che una persona meno intelligente tradisce e forse, chissà, una persona più intelligente non tradisce. Ora, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare, anche un po' scherzose, a margine di questa presunta scoperta o questa dimostrazione che questo ricercatore ha fatto, vediamo cosa ne scrive Fiamma Satta. Dice: sapete chi è Satoshi Kanazawa? Dice: io azzardo una sintetica risposta, è un perditempo. Perché è come definireste un ricercatore di un'università inglese che inonda il mondo con scoperte inutili? Ad esempio, gli uomini giocano a poker, le donne comprano scarpe, le coppie belle fanno figlie femmine e infine l'ultima, qualche giorno fa, gli uomini infedeli hanno un quoziente intellettivo più basso rispetto ai monogami. Dice: a pensarci bene, quest'ultima scoperta di Kanazawa è un buon deterrente per le donne che spiano nei cellulari dei propri mariti, dei propri compagni, dei propri fidanzati. A che pro ormai? Per scoprire che, oltre che bugiardi, sono pure poco intelligenti? Anche Julian Moore, nell'ultimo numero di Vanity, aveva suggerito alle donne di non farlo. E prosegue Fiamma Satta recuperando una bella poesia di Bansky, è un graffitaro inglese che scrive appunto poesie sui muri di tutto il mondo, ha appiccicato una poesia anche su un cancello a Soho, che dice appunto, è una poesia d'amore, dice: è stata una notte d'amore intensa, tenera, dolcissima, una totale unione di corpi, occhi e anime, per poi svegliarsi al mattino in una sorridente beatitudine e vederti che sei lì silenziosa, chiusa nel bagno, a spiare i miei messaggi nel cellulare. Ecco, questo diciamo non è che, seguendo il ragionamento di Kanazawa, deporrebbe a favore anche del quoziente intellettivo, ma è ovvio che alla gelosia, ai sentimenti, si fa fatica a comandare con la ragione. Però è il caso appunto di questo recupero di una notizia che magari avete visto, avete sentito nelle settimane scorse e che è stata ripresa da Vanity Fair. E allora, visto che parliamo parliamo di coppie che si separano, ma non nel modo civile tradizionale, nel modo, voglio dire, recandosi in comune e dando corso alla separazione, ma invece di chi ricorre alla sacra rota. Perché ne parliamo? Perché, ci avverte l'Espresso questa settimana, aumentano i casi di annullamento della sacra rota, che, come sapete, è il tribunale ecclesiastico che dispone appunto l'annullamento dei matrimoni celebrati in chiesa. Perché aumentano? Perché i tempi sono più brevi e i costi sono diminuiti. Notoriamente si pensa che infatti a dire il tribunale della Sacra Rota sia più costoso, sia molto costoso, e quindi è una strada che viene magari meno percorsa. Però questa cosa, come ci spiegano Stefano Pitrelli e Gianni Del Vecchio sull'Espresso, non è che lasci proprio indifferenti i vertici della Chiesa, perché dice: rapido, poco costoso, il divorzio all'italiana sempre più spesso si chiama annullamento. E qui, scusate se facciamo questa piccola digressione, si potrebbe anche agganciarsi a una notizia che spesso si rincorre sui settimanali, cioè le numerose ormai proposte di legge per ridurre i tempi adesso previsti in Italia per separazioni e divorzi, che secondo alcuni, secondo molti in realtà, sarebbero troppo lunghi. Ma proseguiamo nella lettura di quello che scrivono Pitrelli e Del Vecchio. Dice: secondo le stime degli avvocati matrimonialisti, su 163.000 unioni con rito concordatario, nel 2009 ci sono state 8.400 richieste di nullità, 5.800 delle quali arrivate a buon fine, contro i 50.000 divorzi cosiddetti statali. Tutti i matrimoni davanti a Dio che i tanti tribunali ecclesiastici sparsi per il paese hanno dichiarato nulli, come se non fossero mai esistiti, tranne naturalmente per eventuali figli. In aumento ogni anno, infatti, è da tempo che il Papa va ripetendo una cosa che ha ribadito anche a fine gennaio: c'è il rischio di oscurare l'essenza stessa del matrimonio. Da qui Pitrelli e Del Vecchio, appunto, sull'Espresso cercano di spiegare quali possono essere le cause per un aumento degli annullamenti chiesti alla Sacra Rota. Dice: se si moltiplicano gli italiani che si rivolgono ai tribunali ecclesiastici, non è soltanto per tornare a fare la comunione. Come sapete, chi divorzia viene escluso dal sacramento della comunione. Il fatto è che negli ultimi tempi si sta assistendo a una democratizzazione di un percorso che fino a poco tempo fa sembrava esclusiva dei VIP. Seguono appunto alcuni VIP famosi che hanno fatto ricorso alla Sacra Rota: Irene Pivetti, già presidente della Camera, che ha avuto l'annullamento del suo primo matrimonio, Manuela Di Centa, che è campionessa di sci di fondo, oppure approdata alla nullità, o altre persone ancora che vengono ricordate appunto dall'Espresso. Dice: oggi però i costi non sono alti come una volta. Dal 2004 un decreto della CEI ha fissato tariffe minime e massime, e se una persona è indigente il tribunale può anche nominare un avvocato d'ufficio disponendo una riduzione o magari una rateizzazione. Fermandosi ai primi due gradi di giudizio, i costi sono quindi al massimo di 4.000 euro. Passare dalla rota, notoriamente noi parliamo di rota, ma è in realtà il terzo grado, come fosse la Cassazione dei tribunali ecclesiastici, significa spendere la stessa cifra per la sola pubblicazione su carta degli atti, arrivando a sborsare almeno il doppio. Quindi da questo massimo di 4.000 euro i costi crescono notevolmente se si vuole arrivare all'ultimo grado della giustizia ecclesiastica. Però in qualche modo questo non rende competitivi gli annullamenti di tipo ecclesiastico rispetto al percorso tradizionale della giustizia civile, perché dice: se tutto va bene, e soprattutto se moglie e marito sono d'accordo, ex moglie ed ex marito sono d'accordo, come accade nella metà dei casi, tutto quanto si risolve in un paio d'anni. Altro che i tempi della giustizia civile, chiosa Diego Sabatinelli, che è segretario della Lega Italiana per il divorzio breve: per ottenere un divorzio consensuale meno di 4 anni non ci metti, e se non è consensuale non meno di 5, ma se il divorzio poi arriva in via giudiziale si può arrivare persino a più di 10 anni. E stando ai costi, qui mi fa piacere dirlo, ai costi calcolati dal Sole 24 Ore, citano proprio il nostro quotidiano, i colleghi dell'Espresso, si paga fino a più di 12.000 euro. Quindi una dichiarazione di nullità fa cessare tutti gli effetti secondari, gli assegni di mantenimento, i diritti ereditari, eccetera. È più breve, e visti i tempi della giustizia italiana, puntare sulla rota è molto più veloce e anche più economico. Questo appunto raccontano, segnalano i colleghi Stefano Pitrelli e Gianni Del Vecchio sull'Espresso di questa settimana. Beh, visto che abbiamo parlato di coppie che si dividono, che si separano, che non vogliono più essere tali, riportiamo invece in qualche modo le cose in equilibrio, tornando sull'8 marzo, che naturalmente è passato, ma è stato, direi, adeguatamente ricordato su diversi dei periodici che abbiamo a disposizione. Bello il lavoro che è stato proposto da Vita, perché Vita, il magazine dedicato al non profit, al terzo settore, ha scelto di far raccontare la festa delle donne dalle donne musulmane che vivono in Italia e che quindi hanno provato a riferire sulle pagine del settimanale, nel numero 9 del settimanale Vita, un po' delle loro esperienze, delle loro anche difficoltà, che sono difficoltà non solo di integrazione, naturalmente questo è più comprensibile, ma anche di difficoltà appunto di tipo culturale nell'interagire con i paesi in cui si trovano. Colpisce una delle tante corrispondenze che vengono ospitate dal settimanale, quella di Karima Mual, che dedica il suo contributo a questo tema, libere di innamorarci, perché dice: ai nostri fratelli è concesso tutto, noi invece abbiamo l'obbligo, poi viene spiegato nell'articolo che è un obbligo, diciamo, di tipo religioso, non un obbligo di legge, di indirizzare il cuore verso ragazzi della nostra stessa religione, ma spesso a scuola non ce ne sono. E da qui appunto il racconto di Karima Mual su Vita, che dice: sarebbe meglio per una giovane musulmana che innamorarsi appunto di un ragazzo musulmano. Perché? Perché è vero che le coppie miste sono molte in continuo aumento, ma il concretizzarsi di un matrimonio tra una ragazza musulmana e uno straniero è condizionato dalla conversione dello straniero all'Islam. E quindi, che poi questa conversione sia vera o meno, rimane questa clausola obbligatoria per il buon fine del matrimonio. E questo crea una difficoltà di integrazione per le donne musulmane, per le giovani donne musulmane che vivono nel nostro paese. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di 8 marzo, ma vorrei cambiare decisamente argomento per collegarmi proprio al traffico, cioè a qualcosa che può essere capitato di notare anche a molti di voi. Il Mondo questa settimana ci avverte che c'è un pericolo spot in autostrada dato dalla diffusione dei cartelloni abusivi. Mi immagino che molti di voi, quelli che ascoltano magari la radio proprio viaggiando, stando in macchina, sappiano bene di che cosa stiamo parlando. Andrea Ducci sul Mondo ci spiega che questa moltiplicazione di cartelloni abusivi è una moltiplicazione pericolosa, perché ovviamente distraggono dalla guida, talvolta anche ostruiscono un po' la visuale di chi sta alla guida. E quello che insomma c'è di più da rammaricarsi è che i divieti ci sono, come dice Ducci, ma nessuno li rispetta. Infatti, dice, lungo la rete autostradale ormai vige la regola dei cartelloni pubblicitari abusivi o difformi, senza che nessuno riesca davvero a mettere un freno ai mega pannelli installati in prossimità di caselli, tangenziali e svincoli. Una sorta di giungla di cui tutti approfittano, proprio come accade per le affissioni elettorali. L'importante, insomma, è occupare un posto al sole, occupare uno spazio che garantisca un ritorno. E pazienza se questo accade in barba al codice della strada, che non a caso vieta, e qui apre le virgolette, qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e dei relativi accessi. Quindi un divieto abbastanza chiaro e netto, quello portato dal codice della strada, ma che non riesce ad arginare appunto il malcostume del cartello selvaggio, come scrive Ducci. Perché? Perché c'è un vantaggio notevole per più di un soggetto. A incassare le imposte per gli spazi occupati da questi cartelloni sono sia i comuni, che devono rilasciare autorizzazione, sia le concessionarie, che ovviamente incamerano il canone. E in media un cartellone di una trentina di metri quadri accanto all'autostrada vale circa 15.000 euro l'anno. Poi bisogna sapere che il contratto è pluriennale, e a questo contratto pluriennale si devono poi aggiungere 2.000 euro di imposte. Tradotto vuol dire un mercato di decine di milioni di euro all'anno, come rileva Giorgio Conca, che è un imprenditore del settore, presidente appunto dell'associazione l'associazione AIPE, che raccoglie le imprese di pubblicità esterna. Questa associazione ha deciso naturalmente di dare battaglia per arginare queste installazioni abusive che, secondo il codice, dovrebbero essere rimosse, ma il più delle volte nessuno le tocca. Riferisce Conca, abbiamo presentato una serie di esposti alle procure della Repubblica, Lodi, Varese, Bergamo, Milano. I pochi a muoversi sono stati gli uomini della stradale, ma il loro intervento non può bastare. Il controllo spetta alle concessionarie autostradali, che però poi sono le stesse che rilasciano autorizzazione e spesso attraverso società controllate gestiscono gli spazi per il via libera alla pubblicità. È stato sentito anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in questo lavoro di Ducci, che però se l'è cavata, diciamo, con una dichiarazione un po' pilatesca, dicendo: se c'è abusivismo noi certo non possiamo controllare metro per metro la rete autostradale. Dettiamo un indirizzo, appunto il codice della strada, immagino che fosse il riferimento a cui pensavano, noi dettiamo un indirizzo ma poi il controllo spetta ad altri, quindi un proliferare di cartelli a cui per ora non si riesce a trovare un argine, ma soprattutto neppure dei soggetti che possano muoversi per contrastare questo fenomeno. Vi avevo detto nella prima parte, molti dei settimanali, molti dei periodici parlano di 8 marzo, sono tornati in qualche modo sull'8 marzo che è appunto caduto lunedì scorso, ne hanno approfittato in diversi di questa coincidenza. Tra i tanti che ne hanno approfittato, ma in un modo un po' inconsueto se vogliamo, c'è Panorama. Panorama ha affidato alla penna di Annalena Benini un commento abbastanza critico che si intitola 8 marzo 2010 fuga dalla mimosa. Perché? Perché secondo Annalena Benini questa è una ricorrenza da dimenticare, un appuntamento femminista che non ha più senso e infatti quest'anno nessuno l'ha festeggiato. Questa è la ricostruzione, ve ne leggo qualche brano di Annalena Benini, dice: quest'anno non c'è stata la solita invasione di fiori gialli puzzolenti, hanno smesso di regalarceli l'8 marzo. Questo adesso io non so se la collega Benini in qualche modo riferisce una sua esperienza o si basa su qualche dato statistico, la cosa non è spiegata. Però dice: soprattutto noi abbiamo smesso di fingere che ci faccia piacere riceverli. Avessero scelto le rose sarebbe stato bello, i tulipani, le margherite, ma le palline gialle che si sbriciolano non fanno venire voglia di festeggiare. Anzi, quei mazzetti preventivamente appassiti e stanchi offerti dal panettiere sotto casa alle sue clienti affezionate fanno un po' tristezza. Questa là l'attacco della critica di Annalena Benini, che poi però motiva, argomenta in qualche modo questo rituale, quello che lei vede ormai come un rituale stanco dell'8 marzo. Dice: ogni quotidiano si è presentato con un commento femminile sul profondo significato della festa della donna, mentre la festa della donna faceva finalmente flop, mentre le ragazze uscivano normalmente con i fidanzati o con le amiche, ma senza sforzarsi di andare a vedere uno spogliarello maschile solo perché è l'8 marzo e bisogna essere intensamente donne. Miss Mimosa è l'affermazione di Annalena Benini, non ha più senso, non c'è bisogno di un buffetto sulla guancia che consoli delle ingiustizie subite, non c'è alcuna voglia di essere festeggiate con condiscendenza. La festa della donna sa ormai di polvere e di ciclostile, di cortei, di slogan ammuffiti e impossibili da rinverdire. Per le battaglie che sono state vinte saremo eternamente grate, ma quelle battaglie non saranno mai più le stesse, né le combatteremo mai più allo stesso modo. E qui la Benini conclude citando un fatto di cronaca accaduto proprio in concomitanza nella notte tra il 7 e l'8 marzo, la cerimonia degli Oscar. Catherine Bigelow, la regista, ha battuto l'ex marito James Cameron, altro regista, 6-3, cioè 6 Oscar a lei e 3 a lui. Lei prima donna a vincere per la migliore regia e il miglior film. Ma mentre sollevava la statuetta non ha invocato la parità fra i sessi o la rivincita delle donne o la vendetta post divorzio contro il marito che era lì con un'altra moglie, ha semplicemente vinto lei. E conclude la Benini: così è più divertente guerreggiare senza dichiararlo, festeggiare senza mimose, vincere senza sembrare affaticate dalla lotta, complimentarsi per la bravura invece che lamentarsi per la prevaricazione e tenere sempre pronto soltanto, meglio se a memoria, un discorsetto di ringraziamento e ringraziare per i fiori, anche in caso di mimose. Allora, un commento davvero un po' corrosivo, ma sicuramente originale, quello di Andrea Benigni su Panorama di questa settimana. È forse il più schietto, la più schietta critica alla ritualità dell'8 marzo tra le varie che si sono viste un po' in giro nei vari periodici. Il tempo a nostra disposizione però è scaduto. Io vi rimando, se volete risentire questa puntata o tutti gli altri programmi di Radio 24, al nostro sito www.radio24.it. Lì potete trovare naturalmente anche tutti gli altri programmi, l'archivio di tutte le puntate di Magazine 24. Ringrazio Paolo Corleoni che questa mattina ci ha assistito in regia e ringrazio naturalmente anche Manuela Sicuro e Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Con l'occasione do il benvenuto a Margherita Aina che da quest'oggi fa parte anche lei dello staff di Magazine 24. Noi ci sentiamo, se volete, domani mattina alle 8:30 per una nuova puntata di Magazine 24. A domani.